fatto uno nuovo, nuovo per la prima comunione. Scuro. Sempre scuro. Anche al matrimonio di mio zio l'ho suonata. Quello che lavora al ministero, ma non è ministro, che ogni tanto ci risolve le magagne. Come si è commosso al matrimonio suo. Io ero piccolo, il più piccolo a suonare alla chiesa, il bambino prodigio. Gli amici dovevano stare meglio. E quando sono a casa e veniva a trovarmi Padre Niccolò, che lo faceva venire dalle mamme, che diceva che dovevo ritornare sulla strada del Signore Gesù, e che mi imparava Padre Niccolò a suonare la chitarra con le canzoni di chiesa, che poi ci ritornavo di nuovo alla chiesa a suonare come con l'Ave Maria, col pianoforte. E prima di andarsene, Padre Niccolò si fermava nella cucina con mamma e parlavano a uno per non farmi sentire. Mamma, io ero veloce, ero bravo a scuola, dovevo essere, e ascoltavo. Padre Niccolò raccontava a mamma che fuori dicevano che ero un mezzo delinquente, che mi pigliavo la droga, che la spacciavo, e mamma si dava schiaffi da sola. E Padre Niccolò diceva che ci pensava lui, che mi avrebbe riportato nella società. E mi piaceva suonare con la chitarra, ma non le canzoni con la chiesa, che poi ci sono ritornato a suonare alla chiesa, sì, alzano i fiumi il Signore, e alzano i fiumi la voce, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, bom, bom, bom, bom. Sei il mio rifugio, la mia salvezza. E alla chiesa c'erano gli amici pure, che uscivano anche loro finalmente. Non erano state a casa, no. Al riformatore. Non voleva mamma che mi ci vedevo con gli amici. Io ubbidivo. E loro mi hanno piato più nocciuta. Quando passavo per strada mi sputava. Poi mi picchiava. Una volta mi hanno legato ad un albero. E mi hanno preso a cinghiate e poi anche a piaggiate, e mi hanno messo in testa una corona finta di carta di giornale che voleva dire cantalo, pisciaturo. Per il paese erano mezzo delinquente e per gli amici erano giuda, e mamma giangiva la notte. Una ferita anche in queste. Benedizione. Come sei bella. Gioia mia. Mi vieni a trovare pure qua. Qui vieni ogni 3 giorni. Quello che mi dici, che già mi tengono qua dentro, e se lo dico non mi fanno uscire più. Non ci devo pensare queste cose, no, non ci devo pensare, ma la posso dire. L'immaginazione è grande quanto tutta una stanza, la stanza di quando era Quagliariello, c'era una finestra che dava sul monte Collino, che si vedeva da lontano più ciliegio, ma era maestoso. Con la neve sopra i paesi ti facevano pensare a quei presepi di cartapesta che con la mamma andavamo a citare per le chiese. E c'erano le signore bezzocche che facevano i complimenti. E mamma mi diceva, toccati! E io mi... E sorridevo da piccolo, come sorridevo. Tornavo a casa e con la fantasia. Avevo i soldatini, li mettevo per tutta la stanza, anche sul davanzale dove si vedeva Monte Pellegrino. Avevo gli indiani e gli americani, che poi sono la stessa cosa, mi hanno detto. O forse l'ho letto da qualche parte che sono la stessa cosa, che da piccolo come leggevo quando ero piccolo, che c'erano le signore bizzocche che portavano a casa pacchi e pacchi di giornalini, il geppo, soldino, braccio di ferro, capisci, topolino, dedici, e forse lì ho detto che gli indiani e gli americani sono la stessa cosa, solo che alcuni sono rossi e altri blu. E avevo gli animali anche. La mia giungla, c'era tutta casa, diceva. Che quando lo facevo, mamma si incazzava, la cucina diceva che erano giudie. Veniva però a vedermi giocare nella stanzetta. E quando entrava, io smettevo. Facevo finta di giocare, che mi vergognavo, e volevo vedere lei che faceva. Non faceva niente. Stava seduta sul letto, con un sorriso che era anche un po' di pianto, e guardava molto Pollino. E poi quando usciva, avevo pure le macchinine, ci facevo fare le corse, la Coppa Silla, il Gran Premio d'Aspromonte, le mille miglia a Paola Sibari Paola. E poi mi inventavo delle storie, le storie d'amore. Prendevo un soldatino ed una soldatina, un'americana e un indiano. Un soldato con un cavaggio, capito, c'era il campo. E li facevo baciare. E emozionava. Mia mamma questa storia dei soldatini la racconta a tutto il paese, alle zocche. E loro hanno fatto i complimenti. Però quando uno è felice, si vede con la faccia che è felice. E loro invece con le parole dicevano una cosa e con la faccia ne facevano un'altra. E io gli ero chiesto a mamma. Copiavo i disegni dai giornaletti, ma no, quelli delle bizzocche, quelli che portava papà quando l'hanno fatto direttore, che mamma solo dire che era direttore. E io copiavo i disegni e gli facevo fare i dialoghi, i personaggi diventavano mamma, papà, mio fratello, zii, cugini, nonne. scriverei oppure scriverei. Se vuole più la scuola. E poi c'era un dentista, no? Che io quando ero piccolo avevo con l'apparecchio ai denti, che una volta mamma in pizzeria l'ha perso. E si era preoccupata, l'ha cercato per tutta la pizzeria. E le persone che c'erano si sono messe a cercarlo pure, e uno di questi però guardava a Lucia. Mamma ha detto, ma signore, che cosa sta guardando? Perché non so in giro la pareggi. E c'era questo dentista che non mi piaceva proprio, assomigliava a Satana. Senti pure a me. Senti, pure a me quando penso che cose cattive. Era diventato cattivo. Io era diventato cattivo, ma io sono buono. Ma era diventato cattivo. Era diventato cattivo. Io sono buono. Ma era cattivo. Non dovevo fare disperare la mamma. Io era guaglioneggio. Chiusi male parole. Su delinquente, la gioca. Io mi dispiacevo ed era diventato cattivo e la mia testa era in tilt. Tutto mi passava come uno suono. Non dovevano fare arrabbiare con la mano. Non la dovevano fare arrabbiare, giusto la mamma. Ero vivi, uvidi, madonneggia. Ti l'hai portato, i frutti di un peccato, che tu gli scatti sotto i piedi, come scatta la tentazione. Loro, io era buono, era un più buono e mi trattavano bene, mi trattavano con rispetto. Io, pigliato a benevolire, mi ci confidavo con loro. Gli amici mi facevano i chiuovi. Che una volta uno di un amici, come un fratello, che non sapeva che erano loro, mi ha scottuto in piazza, in mezzo a tutti. Loro l'hanno guardato così storto che l'hanno ammutato con lo sguardo. E quando non c'era la luce del giorno che li schiamava, dicevo loro, lo sono andati a prendere a casa. L'hanno fatto uscire, l'hanno messo in un sacco, l'hanno chiuso, l'hanno cutugnato con bastoni e con i calci, l'hanno caricato in una macchina, l'hanno portato sulla spiaggia, l'hanno pulignato di nuovo e hanno fatto uscire solo la testa e l'hanno messo davanti al mare, scuro, di notte, e ci hanno detto: la prossima volta ti ci siamo legato come hanno prosotto. Con la gioca. tutti così, ingiotato. E io ero da solo, per non pensare, fumavo. Perché mi bastavano i guai, non pensavo all'amici che mi facevano di più, non pensavo al paese che ero un mezzo delinquente, a mia mamma che non usciva per la rigogna. Non pensavo a niente e mi sentivo forte e coraggioso e poi stavo di nuovo insieme agli amici che anche a loro gli piaceva fumare le sigarette e io le facevo pigliare la cuore e fumavamo tutti quanti insieme dietro all'orto della chiesa e una volta gli amici l'hanno pure piantata all'orto della chiesa che Cristo è quest'anno, l'ha scambiata per verdure e l'ha raccolta. E il prete se l'è mangiata nella minestra. E quando ha detto la messa, dici che pure lui ha visto a te, mamma mia. E la chiesa ci hanno creduto. E tutti hanno visto a te, mamma mia. E quando si faceva alta la ricciola, la raccoglieva. Se la vendeva e mia manco una picca mi hanno dato che se non era per me e poi lo sono venuti a sapere loro che la vendeva che quelli sapevano tutto. Non si muove una foglia senza il loro permesso. E lo sono venuti a sapere, si sono incazzati. E quando non c'era la luce del giorno che riscamava, mi hanno aspettati nell'orto. Sagrato è loro dietro, per Piazza Mercato è loro dietro, che quelli di Piazza Mercato che lo vedevano scappare diceva che era un impazzito per la droga, che lo sapevano tutti che ci giuravamo dietro all'orto della chiesa, ma non lo diceva nessuno. Quello poi è entrato nei vicoli e loro ha preso, è entrato in quelli più scetti che pensavano di esecutarli e loro ha preso. Allo Castiaggio e loro presto uno butta una pistola su di che non gli sfarruggi le gambe e stai fermato e dici che quando è tornato a casa è scumata a sangue con un eccellone la mamma quando l'ha aperto non l'aveva riconosciuto pieno di sangue e di botte e si pensava che erano un giocato che lo voleva derubare e stava chiamando i carabinieri quando quello ma noi ma e ha riconosciuto la voce gli avevano tagliato un dito per farsi dire chi erano gli altri che lui non voleva fare un canta come mi ci chiamavano a me ma io non avevo fatto niente e gliel'ha detto poi e loro li sono andati a prendere ad uno dici che dalle botte prese non riuscivano manco a parlare e non si sono fatti vivere per un mese a Piazza Mercato e so che dicevano che erano andati a fare una gita. Si è venuta donna. Un vecchio ma troppo brutto. Salvami tu, glielo beccato. Il beccatore. Salvami tu. Quei libri aveva chiesto e non dovevo fermarmi col pulmino alla fermata della scuola, no, dovevo proseguire per una sala giochi e le lasciavo al proprietario. Prima di tutto, e lo sapeva tutto il paese. immenso delinquente che era. Era diventato un mondo malavitoso. Non guaito. Non fiducioso. Non merda. Non cani di mangia. Non meni niente. E non ne voleva più nessuno. Quando passavo per strada, tutti che mi abitavano, e entravo nei bar e la gente usciva, qualcuno sputava anche a terra. Mamma era a casa, ma per la vicogna, e io appresso a lei. Ma no per la vergogna, perché non mi voleva nessuno. E ci sono stato tanto a casa, di nuovo. E non andavo manco più a scuola, non mangiavo, ero rocciottato un'altra volta. Ed era giù, la scuola stava finendo e loro, intanto che non andavo più, e la scuola stava finendo e mi bocciato, e i professori allora hanno andato a dire a mio padre, che era il direttore e aveva l'onore vero, lui, no, quello che credevo d'avere io. Basta che mi facevo vedere a scuola, che mi avrebbero promosso lo stesso, che basta che facevo due cose alle interrogazioni. E io ho obbedito. Sono andato a scuola. All'uscita di scuola, e uno grosso e con la barba che non avevo mai visto, e quando l'ho visti ho accelerato il passo, che cagareggia che aveva, e loro mi sono venuti dietro, hanno fatto un voi pomeriggio, ti volevo bene, e io ho accelerato il passo e dovevo pigliare il pullman, però c'era la strada in mezzo con le macchine, e se il pullman passava non lo prendevo, e dovevo accelerare il passo, ma c'erano le macchine, e il pullman passava e lo prendevo, ma c'erano le macchine e passava, ma il pullman, e mi sono imbeciato, e loro sono arrivati. M'hanno accarezzato, quello grosso con la barba mi ha detto come sta, che noi sappiamo tutto, non vi deve preoccupare, che noi siamo amici veri. E stavano cacciando una pistola quando sono spuntati due in giacca e cravatta da chissà dove, che l'hanno azzuffati, ci hanno messi i braccialetti, fermatevi cari fidusi, è spuntato mio padre pure da chissà dove, e io ho gridato fortissimo e sono svenuto e mi sono trovato qua. Mamma mi viene a trovare ogni giorno. Mi viene a trovare. che dice che quando sarò meglio mi portano fuori da qua, che io esco. Non mi ricordo niente da quando sono svenuto. Mi ricordo però che avevo paura. Che quelli che erano arrestati lo dicevano agli occhi di loro e mi venivano a fare la peggio. E ci pensavo forte. E li vedevo. Loro, le vedevo dappertutto. Mamma era diventata loro, Pagina era diventato loro, Fratna era diventato loro, e gridavo, e mi hanno portato qua. E mamma mi viene a trovare ogni giorno, che dice che mi cacciano quando sarò meglio, che ho un'immaginazione grande quando tutto il paese, che è la droga che mi ha fatto stare così, che non è per niente, che loro non esistono, e che ha detto alla signora Pizzocchi che sono andato a farmi una gita, e gli amici sono andati a lavorare tutti al nord, e dice mia madre che ho un'immaginazione grande quando tutto il mare è sciupato e gli anche come la morte ha perso tutti i capricci, messa in pensione per la prigogna e non tiene nemmeno 45 anni, che ha perso tutto l'onore, e dice che sono ritornato ufficio Giosua, e poi quando sto meglio mi cacciano da qui e sorride sempre